America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. La Befana, 6 gennaio, direi che da oggi formalmente comincia questo 2014, il primo lunedì vero, dove a un certo punto si torna al lavoro, si ricomincia e si comincia soprattutto a pensare ai premi Oscar, si comincia a pensare ai Golden Globe, si comincia a pensare ai più bei film dell'anno scorso. E con chi lo faccio? Non potevo che farlo col massimo esperto in materia, con Antonio Monda, che è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Antonio. Buongiorno Mario, grazie per le belle cose che dici. Ecco, ma c'è stato un film sulla Befana? Ma ce ne sono stati tanti, però sono anni e anni e anni. Negli anni 30 e 40 c'è stata tutta una serie americana che scherzava su questa tradizione cattolica o prevalentemente comunque cristiana, ma non in maniera sarcastica o ironica, ma come una festa in più rispetto alle tante feste che la religione comporta. Parliamo invece dei film di adesso. Ecco Antonio, Gravity, un film nello spazio, un film un po' assillante, devo dirti la verità, a me così l'ho trovato un po' lento. Gravity è certamente uno dei favoriti, secondo me non è il massimo favorito, da quello che colgo ti è piaciuto non tantissimo, a me è piaciuto più che a te, l'ho trovato invece godibile, piacevole e comunque una grande prova di regia, perché parliamo di due attori, un film con soli due attori, anzi da un certo punto in poi è quasi solo Sandra Bullock nello spazio, è tutto affidato alle meravigliose immagini ricostruite con il computer, i dialoghi sono ridotti al minimo. La critica più grande che faccio a questo film è la faccio quando lo paragono a un film simile che si chiama All is Lost con Robert Redford, dove addirittura c'è un solo personaggio perso nell'oceano. In barca, infatti. E non c'è una battuta di dialogo, che è una scommessa di regia, non da poco. Cioè fare un film senza dialoghi significa essere proprio bravi. E in questo Cuaron, ritornando a Gravity, secondo me è stato bravo. Io sarei meno severo. Allora, vediamo invece uno dei grandi favoriti. 12 anni schiavo. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, live with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Ecco, di nuovo, 12 anni schiavo, ma insomma anche questo l'ho trovato un po' lento, non so, è come se fosse l'anno dei film così un po' introspettivi, un po' lenti, e certo ha una sua potenza questo film, ma tu che ne dici? Sono d'accordo con te sulla grande potenza. Scusa, diciamo ai nostri ascoltatori che cos'è 12 anni schiavo, è la storia di un nero emancipato, libero, che viene con uno stratagemma portato al sud e viene rapito e viene venduto come schiavo. Quindi vive 12 anni appunto come schiavo. È una storia tragicamente straordinaria, vera. L'obiezione che faccio al film, che certamente è molto ben fatto, è che sia più potente che veramente bello, cioè non cerca e non vuole essere un film d'arte, vuole essere un film, un urlo straziante contro quell'abominio che è stata la schiavitù. Ci sono dei momenti molto riusciti, quasi invedibili per la violenza e gli abusi che subisce questo povero uomo, che ha subito nella realtà questo povero uomo e altri amici, anche loro schiavi. Poi c'è qualche ingenuità hollywoodiana, come il personaggio dell'angelo custode interpretato da Brad Pitt, guarda caso produttore del film, l'unico bianco buono che alla fine lo salverà. Insomma, è un film più hollywoodiano di quello che vuole apparire, con tante cose buone ma un pochino sopravvalutato. Every crew, 1 minute, I kill all your friends. 1 minute. Where is your crew? I don't know. New player. Captain Phillip, ecco, a me devo dire questo è piaciuto molto. Tom Hanks l'ho trovato straordinario, attore bravissimo, questo capitano, un uomo molto normale che si trova rapito dai pirati somali. Ha probabilità di vincere, miglior attore? Beh, c'è qualcosa, secondo me, ha qualche possibilità come recitazione, ma anche lì non è facilissima. Anch'io ho apprezzato il film molto, mi sono molto divertito, molto emozionato. Se vogliamo fare un'obiezione, anche se rischio di essere politicamente corretto, il modo in cui vengono dipinti, raffigurati i somali e il modo in cui John Ford dipingeva gli indiani, cioè brutti, sporchi e cattivi, non ce n'è uno che si salvi. È vero che si vede la loro disperazione, ma è un film stranamente anacronistico. C'è l'eroe bianco buono circondato dai selvaggi. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. The Wolf of Wall Street, il lupo di Wall Street. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio è il lupo e un lupo a Wall Street. Che ne dici? Se dovessi scegliere io, darei tutti gli Oscar a questo film. Come interpretazione, non solo DiCaprio che è magnifico, ma anche i comprimari, come regia. È ritornato il grande Scorsese degli anni 90. Sembra di rivedere Goodfellas, Casino. È veramente un film straordinario che racconta un itinerario morale più che il capitalismo. Chi non lo ama lo accusa di essere un film senile, di un uomo che vuole riconquistare la fama giovanile, o lo accusa di non accusare troppo il mondo che racconta, perché è troppo più interessato appunto a un itinerario morale. Questa è in realtà la sua grandezza. E allora, Antonio, chiudiamo con quello che è l'auspicio poi di tutti noi. Credo che tutti puntiamo a che il nostro film italiano, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, possa davvero non solo essere nominato come miglior film straniero, ma vincere. Che dici? Ci sono probabilità? Allora, innanzitutto ha buone probabilità, ma io voglio dire che non solo faccio il tifo per Paolo Sorrentino, che è un regista di primissimo ordine e di grandissimo talento, ma lo ammiro per il coraggio con cui è saputo andare contro tutto e tutti a fare un film politicamente scorretto, sconveniente, urticante, ambiziosissimo e anche molto bello. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo con i consigli musicali 2014, le band da tenere d'occhio, i consigli di America 24, gli Skaters. Gli Skaters sono un gruppo rock di New York con un grandissimo potenziale. Degli Skaters, I Wanna Dance. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.